Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Buonasera e benvenuti, Luca Tremolada al microfono, sono le 16.08 e oggi trattiamo di controversie scientifiche, insomma lo leggiamo tutti i giorni sui giornali. Nanotecnologie, il nucleare, la clonazione, gli OGM, il clima, insomma sempre più spesso il dibattito scientifico entra nell'agenda politica ma anche nella vita di tutti i giorni. Noi oggi ne discutiamo con Leopoldo Papi, che è il giovanissimo, saluto. Sì, buonasera. Sì. Giovanissimo giornalista scientifico, ve lo ricordate, l'altro ieri era inviato nel supermercato ecologico, è stato buttato fuori, insomma è stato coraggioso, intrepido. E ne parliamo anche con Guido Romeo in collegamento da Venezia. Buongiorno Guido. Buongiorno a tutti. Allora, Guido, congratulazioni a Leopoldo che è sopravvissuto allora ieri. Non faccia dell'ironia. Allora, Guido Romeo, il nostro inviato, è andato a Venezia, adesso è in compagnia con Angela Liberatore, esperto di governance del rischio della Commissione Europea, e Massimiliano Bucchi, direttore di Observa e sociologo dell'Università di Trento. Insomma, insieme a cervelloni, mettiamola un po' così, perché siete a Venezia? Siamo a Venezia perché c'è un incontro, un gruppo di lavoro sulle controversie scientifiche, guarda un po', e abbiamo parlato di tante cose, anche di strumenti che poi ci racconteranno i nostri due ospiti, ma devo farti solo un piccolo appunto, insomma tu hai presentato benissimo, tu hai detto insomma le grandi questioni delle controversie, ma sono anche tante piccole cose insomma di controversie scientifiche. Le grandi opere, la TAV. I biglietti dell'autobus in Olanda, cioè? Pensa. Lì per esempio hanno messo l'RFID dentro i biglietti dell'autobus e quindi diventa anche una potenziale invasione della privacy, che gli olandesi giustamente sono molto gelosi, e tu se mi tracci. E questa è una controversia scientifica? È una controversia su come la tecnologia impatta nella nostra vita. Ecco. Ma guarda, chiediamo a Bucchi che ci spieghi come sono fatte queste controversie, perché non sono mica tutte uguali, sai. Bucchi, ci dica. Ma credo che si possano distinguere quantomeno due tipi di controversie tecnico-scientifiche, come noi le chiamiamo, cioè controversie che hanno più a che fare con l'impatto o con l'utilizzo dei risultati della ricerca scientifica o dell'innovazione tecnologica, come alcune di quelle che sono state citate, per esempio appunto l'uso della RFID, la questione della privacy, oppure ovviamente la clonazione. Cioè tutte quelle innovazioni che pongono dei problemi dal punto di vista o delle implicazioni importanti dal punto di vista politico, economico, sociale e culturale. E l'altro tipo invece sono le controversie dove invece abbiamo a che fare con una conoscenza scientifica incerta o controversa o non ancora stabilizzata. Ecco, in entrambi i casi, mi dica se ho torto o ragione Buchi, in entrambi i casi insomma quello che poi interessa al cittadino è cercare un po' di avere degli strumenti per formarsi un'opinione, perché è evidente che affidarsi solo agli scienziati può, soprattutto nel momento in cui sono divisi gli scienziati, può essere problematico, ed è allo stesso tempo complicato basarsi solo su quello che scrivono i giornali o si legge su internet. Il problema, la domanda fondamentale oggi, ma non solo per i cittadini, anche per i politici, qui per esempio abbiamo anche una serie di policy maker da varie istituzioni europee, è appunto quali esperti. Non è tanto la questione di volersi o non volersi affidare agli esperti, ma quali esperti e quali risultati, perché spesso, come lei giustamente ha detto, sempre più la polifonia dei pareri scientifici diviene accessibile anche al pubblico, mentre una volta non era così, non è che non si discutesse tra esperti, la storia della scienza naturalmente è fatta di controversie, ma queste non erano visibili in pubblico, questa è una delle differenze principali, ecco. Credo. 824-0024, oggi proveremo anche a passare un po' ai raggi X alcune importanti grandi controversie che insomma muovono i tempi moderni, diciamo. 349-238-6666, se vogliamo capire come giustamente, in che modo un cittadino può formarsi un'opinione. Anche perché, Guido, vediamo se ho capito bene, a Venezia state, che avete citato più volte, insomma siete riuniti riuniti tra policy maker, scienziati, ricercatori con un obiettivo ben preciso, se non sbaglio. L'obiettivo, uno degli obiettivi era testare questa nuova piattaforma che appunto Massimiliano Vucchi ha messo appunto, ha cominciato a sviluppare insieme a un gruppo europeo, l'obiettivo sia avere anche un'idea di come i cittadini, i giornalisti possono usare i nuovi strumenti tecnologici per mappare queste controversie. In fondo, insomma, noi ne parliamo spesso su Nova, anche su Nova Lab 24, questi famosi media digitali ci possono aiutare non semplicemente a scambiarci SMS o foto su Facebook, ma veramente a costruirci un'opinione, una conoscenza del mondo più articolata, più dettagliata. Ecco, soffermiamoci un istante su questo aspetto, perché non è così banale, cioè la costruzione delle mappe. Noi abbiamo visto anche in passato l'Institute of the Future che creava delle mappe per proprio a forma, cioè le mappe cartografiche, proprio per cercare di visualizzare quello che sarebbe accaduto nel futuro nei 10 anni, si ragionava in 10 anni in 10 anni. A questo punto la mappa diventa uno strumento per formarsi delle opinioni, no? Sì, senz'altro. L'idea di questo incontro è appunto quello di testare quella che noi chiamiamo piattaforma, in sostanza è un insieme di strumenti digitali che consentono proprio di, magari in questa fase non ancora al cittadino in quanto tale, però per esempio appunto al giornalista, a chi deve prendere delle decisioni, a un'associazione, a un gruppo di interesse particolare, di mappare per esempio quali sono i posizionamenti, chi sono gli esperti chiave su una certa questione. Su una certa... Riusciamo a fare qualche esempio, anche perché c'è qui abbiamo Leopoldo Papi che ha un po' dragato. Noi abbiamo pubblicato, ricordiamolo, sul Twitter di Novalab24 i link per andare un po' a osservare, a visualizzare alcune delle mappe che sono già state predisposte. Il nostro Papi un po' le ha guardate, insomma, si è informato. Che idea ti sei fatto? Ma sì, il problema che mi sembra di capire è queste mappe, chi le fa e in base a quali criteri, perché poi fondamentalmente non, insomma, certo, chi fa la mappa, certamente se la mappa è fatta solo da uno scienziato o solo da un politico, insomma, ci possiamo credere. E poi c'è il problema dei criteri, perché una mappa dipende molto dai criteri che si scelgono per disegnarla, cioè ad esempio ci sono delle questioni che sono non controversie all'interno del mondo scientifico, ma al pubblico sì. Ad esempio questioni tipo l'evoluzione o molte questioni... Darwinismo, il creazionismo... Bucchi! Sì, per fare un esempio subito, uno dei casi di cui abbiamo parlato questi giorni, il gruppo di Amsterdam che lavora molto con strumenti che attraverso Google fanno delle mappe, per esempio delle fonti scientifiche, non solo scientifiche, hanno mappato dove si trovano i climate skeptics, gli scettici del clima, e quali sono le istituzioni che gli danno più credito. Quindi in realtà la mappa appunto la fa l'utilizzatore inserendo una serie di siti, per esempio, come è spiegato lì, poi se uno va a vedere, e attraverso questo, che naturalmente non è l'unico strumento possibile, si comincia a fare un'idea di quello che è lo spazio di discussione intorno. Cioè, quindi mi consenta la battuta, quindi se si scopre che la maggior parte degli scettici sono nel Varesotto oppure in una zona ben specifica dell'Italia, che può essere la Toscana, così, insomma, si arriva a delle conclusioni piuttosto che altre. La sto semplificando un po' o no? Sì, sì, si può usare naturalmente in questo modo, oppure vedere quali sono le riviste scientifiche che danno più credito, oppure le istituzioni che sono più vicine a questa posizione, e dopodiché naturalmente andare avanti chiedendosi perché, qual è per esempio la configurazione delle relazioni, dei network e al limite anche degli interessi su queste altre questioni. Ecco, sulla questione del clima, che ricordiamo è particolarmente strategica, a dicembre ci sarà una sorta di ONU, un grande appuntamento a Copenaghen sul clima che seguiremo e avremo anche degli speciali ad hoc su questo tema. Sul clima che cosa sta emergendo, cioè che cosa vi siete detti in vista di questo appuntamento? Non so se qui vuole rispondere anche Guido. Ma intanto facciamo subito una chiosa. Il clima, almeno tra gli scienziati, per fortuna, non è una controversia che c'è il cambiamento climatico. Questo diciamolo, ci sono controversie semmai. La faccio semplice: la temperatura sale, questo è un dato che non si può discutere. La temperatura sale continuerà a salire, questo non lo discutono più, ma anche vedo che insomma, vediamo che anche molti, la gran parte dei policy makers non lo discute più, perfino in Cina hanno detto questa è una cosa che sta succedendo, non è che succederà, sta proprio succedendo. La discussione, la controversia semmai è su cosa fare, cioè su come contrastarlo e su che mezzi misure prendere, tassiamo la CO2, non la tassiamo, diamo le sovvenzioni, non le diamo, insomma, e quindi questo sicuramente diventa molto interessante. C'era il tema dei raggi cosmici, però, nel senso è che una cavolata, è una cavolata. Me l'hai così distrutta, una cavolata. Così, però poi no, diciamo qual è il problema dei raggi cosmici, che a un certo punto qualcuno ha detto, guardate che il buco dell'ozono non è una questione che ha a che fare con l'attività umana, ma discende dai raggi cosmici, per cui è inutile che i paesi devono cominciare a produrre in maniera differente, ma semplicemente il clima sta cambiando, cambiano i raggi cosmici, per cui dobbiamo accettare questa situazione. I raggi cosmici sono collegati ai cicli delle cosiddette macchie solari, quindi all'attività solare, e sono una cosa che esistono ed è vera e misurata, quindi questa è la parte vera. La parte invece che non quadra è nel imputare ai raggi cosmici la spiegazione di tutto il riscaldamento, di tutto l'effetto serra, perché non, semplicemente non sono abbastanza e ci sono dei calcoli molto precisi insomma su questo, quindi in questo senso è più una controversia, se vuoi, a livello dei media, che rimbalza a livello dei media, che a livello della comunità scientifica, ma credo che sia interessante poi invece vedere anche le controversie che ancora devono emergere, che stanno per emergere. Per esempio Angela Liberatore mi parlava prima di cose di cui ancora forse non si discute, perché non sono arrivate, come dire, ad avere un impatto abbastanza ampio nella società, ma per esempio il passaporto biometrico potrebbe essere una controversia. La domanda è una controversia in attesa di esplodere, quella sul passaporto biometrico. Guido, spieghiamo che cos'è il passaporto biometrico. Il passaporto biometrico è un passaporto nel quale, invece di avere la classica, diciamo, fotografia, c'è una fotografia digitalizzata che quindi può essere poi trattenuta in una base dati alla quale hanno accesso varie autorità. E in prospettiva ci sarà non solo questa foto digitalizzata, ma anche due impronte digitali. Quindi l'idea, che cos'è? La biometria, dal greco bios, vita, e metros, misura, è l'idea di misurare delle parti fisiche dell'individuo per poterlo riconoscere, considerando che queste parti sono individuali, non riproducibili, e poter anche tracciare questo individuo nei suoi movimenti. L'origine dell'idea del passaporto biometrico è stata in realtà l'11 settembre. Gli Stati Uniti hanno cominciato a chiedere prima di reintrodurre il visa per i cittadini europei che non l'avevano, tra cui quello italiano, per entrare negli Stati Uniti. È diventata poi una discussione a livello europeo, è già stata un po' una controversia scientifica, nel senso che si è molto discusso se avere solo la foto, se avere anche le impronte digitali, quando introdurle, eccetera, e la controversia non è di nuovo sulla parte tecnologica, è una di quelle controversie, come diceva Massimiano Bucchi, non tanto sulla fattezza della tecnologia o i suoi impatti, con alcune diciamo, piccole controversie, per esempio sugli impatti della salute nel riconoscimento dell'IRIDE, perché lì invece ci sono alcune controversie sul fatto che questo può avere qualche impatto sulla salute, ma diciamo non è il problema delle impronte digitali o della foto che può fare questi impatti, esatto. Quindi la controversia è di più sulla questione degli impatti che questo tipo di tecnologia possa avere sulla privacy delle persone e anche sulla possibilità delle persone di correggere un errore, nel senso che si assume appunto che le impronte digitali siano uniche, non siano contraffattibili, e lo stesso per la foto digitale, ma nel caso di errore è molto più difficile dimostrare che c'è un errore. Allora, fino a prima di Obama un errore del genere poteva costarci Guantanamo, adesso possibilmente no, però diciamo la questione del chi poi può provare se c'è un errore e quali sono le implicazioni per le libertà personali è ovviamente una questione che è stata già ampiamente discussa da alcuni gruppi di sia gruppi di esperti a livello dell'Unione Europea, sia ovviamente organizzazioni per i diritti civili, giuristi eccetera. In Italia mi sembra non se ne sia parlato effettivamente moltissimo. Se è una controversia che possa esplodere o no, secondo me dipenderà da quante persone si renderanno conto, rinnovando i documenti, che per il passaporto bisogna... ecco, bisogna Liberatore, andare... però, scusi, mi faccia capire, perché poi i tempi della scienza non sempre, anzi spesso, sono un po' più lunghi rispetto a quelli della politica, nel senso che io stavo pensando al film Minority Report, dove c'erano quei robottini che andavano a identificare le persone saltando sul viso e andando a leggere l'iride. Però ecco, se l'analisi dell'iride dovesse rivelarsi dannosa all'organismo, noi lo sapremo tra 5-10 anni, ammesso che l'Organizzazione Mondiale della Sanità decida di fare degli studi ad hoc. Per cui in questo senso, cioè, sviluppare una controversia scientifica significa semplicemente dire al policy maker: attenzione, che su questi temi non abbiamo argomenti certi. Sì, questo è appunto l'aspetto, come si diceva, positivo, anche proprio positivo per la democrazia. Questo era uno dei dibattiti del progetto nel quale lavora Massimiano Bucchi, cioè l'idea che le controversie scientifiche fanno bene alla democrazia e allo stesso tempo la democrazia fa bene alla scienza, garantendo la possibilità della competizione delle idee e del pluralismo delle idee e anche dell'accesso delle conoscenze specialistiche da parte dei cittadini, dei giornalisti, dei gruppi anche di interesse e anche dei rappresentanti ovviamente eletti eccetera. Quindi, come lei dice, le ricerche in corso possono durare più tempo rispetto al momento in cui si decide che è il momento di decidere. Sull'iride in realtà ci sono già ricerche da parecchio tempo, anche perché in alcuni paesi diciamo lo scan dell'iride viene già introdotto e quindi è da lì che sono cominciate le analisi. Per quanto riguarda l'Unione Europea c'è già una direttiva che prevede appunto l'introduzione del passaporto biometrico, per adesso solo la fotografia, nel giro di un anno anche delle impronte digitali, ma dell'iride ancora non se ne parla. Quindi nel momento in cui questo dovesse diventare un problema per i cittadini europei, almeno che non viaggino nei paesi dove sono obbligati a mettersi lo scan dell'iride, penso che la ricerca sarà un pochettino più avanzata. Ecco, mi faccio un po' interprete degli sms che stanno arrivando in redazione, dove c'è un po' il sospetto, insomma, che queste mappe poi siano uno strumento di pressione da parte della scienza. Ma lo sa che un sms dice: scusate, ma perché sul tema del clima non andate a vedere le relazioni tra ambientaliste, organizzazioni no profit, trader dei diritti di emettere le emissioni di CO2, cioè tutto ciò, tutte quelle agenzie che insomma lavorano sulle emissioni? Perché no, in realtà questa è una delle mappe che si possono fare, che in effetti vengono fuori dal lavoro del team. Piccolo spot pubblicitario, piccolissimo, diciamo, perché siamo in chiusura, dobbiamo dare la linea alla borsa. Breve, questo progetto è un progetto europeo, nel senso che è finanziato da un programma europeo su scienza nella società. proprio con l'idea che, come si diceva, faccia bene avere questo tipo di dibattiti a tutti i livelli, quello europeo ma anche quello locale, nazionale, regionale. Torniamo a discutere, ci presenta bene qual è il, insomma, chi sono i mandanti di questo progetto subito dopo. Adesso diamo la linea alle borse. Nova Lab 24. Buongiorno e bentornati, Luca Tremolare ai microfoni. Stiamo discutendo di mappare la scienza, sostanzialmente, di mappare le controversie della scienza. Guido Romeo è a Venezia, dove un convegno sta organizzando una piattaforma web dove creare delle mappe per rendere il policy maker, il politico, ma perché no, soprattutto il cittadino, più obiettivo nelle proprie decisioni, insomma avere una mappa che gli consenta di avere tutti i pareri, tutti i dati scientifici, tutte le informazioni per poi insomma costruirsi un'opinione. Cioè, qui in studio Leopoldo Papi che mi guarda fisso. Sì, lo guardo fisso, anch'io sono perplesso, diciamo, sulla questione, perché trovo... Addirittura... No, perplesso no, nel senso che appunto creare una mappa sulle controversie può essere una controversia, può creare una controversia in se stesso. Nel senso cioè giustamente Leopoldo dice, vabbè sì, è controverso il fatto che una mappa possa aiutare i cittadini a rappresentare le controversie. Forse è un sofismo questo. Guido Romeo. Siete molto sofistici oggi, il pomeriggio ispira, devo dire, ma intanto credo che sia bene, faccia bene riprendere una riflessione che ha fatto Latour qui, Bruno Latour, che coordinava un po' questo panel di lavoro. Sociologo, anche, filosofo, ricordiamo. Filosofo, insomma, difficile presentarla, visto il lungo curriculum, ma autore di tantissimi lavori, ma che anche Angela Liberatore diceva prima, cioè il rapporto tra democrazia e controversia, cioè la democrazia è quella che rende possibile con la sua libertà di espressione la nascita di controversie, cioè di opinioni discordanti su una questione, ma le controversie fanno anche bene alla democrazia, cioè possono salvare una società che ha delle controversie, ne discute, è molto più, come dire, robusta e in salute. E c'è per esempio un caso molto interessante che il Liberatore può illustrare molto bene, che è quello della mucca pazza, per esempio, è vero, cioè il Minority Report ci salva dalla mucca pazza in realtà. Più o meno si potrebbe dire così, nel senso che non so se vi ricordate un po' la sequenza degli eventi, ma comunque dal punto di vista dell'uso delle minoranze di esperti, una cosa che era successa era che una minoranza di esperti aveva effettivamente scritto uno studio nella quale si ipotizzava e si dimostrava la possibilità della trasmissione della malattia dagli animali all'essere umano. Questo rapporto, chiamiamolo così, di minoranza era stato più o meno cestinato sia da parte della comunità scientifica mainstream dominante e del governo al quale era stato presentato, quello britannico. Purtroppo però poi l'opinione della minoranza scientifica si è dimostrato vero, e quando poi l'epidemia si è scatenata, la cosa è diventata ovviamente un problema che ha trapassato le frontiere, è diventato velocemente un problema europeo, per non dire più internazionale, quindi questo ci dimostra, da questa lezione, di quello che non bisogna fare, e cioè mettere a tacere le minoranze, che non vuol dire assolutamente che le minoranze hanno sempre ragione, le maggioranze abbiano torto, assolutamente non è questa l'idea, né in politica né in scienza, assolutamente, ma l'idea è che bisogna comunque ascoltarle, bisogna poterne dibattere, bisogna poter verificare e bisogna pensare a quali sono le opzioni che ci sono dal punto di vista poi della decisione politica o dei comportamenti, delle scelte dei cittadini. Ecco, allora, la lezione è stata presa a livello europeo, per cui per esempio l'agenzia che si occupa della sicurezza alimentare, una delle cose che fa, che si discuteva anche qui, è abbastanza rivoluzionaria, è quella di registrare le opinioni di minoranza, ed è quello che anche nei comitati di esperti della Commissione europea si è cominciato a fare in un rapporto che abbiamo scritto sulla cosiddetta democratizzazione dell'expertise, una delle quali, sulle quali si è insistito, è appunto la possibilità di ascoltare la pluralità delle opinioni, metterle in discussione, e questo fa bene in realtà non solo alla democrazia ma proprio alla scienza, perché in fondo il progresso scientifico c'è grazie alla possibilità di verificare o contestare i risultati, le ipotesi, le teorie, i dati che vengono formulati. Quindi, ecco, tra l'altro non solo la mucca pazza, io sto pensando anche al fumo passivo. Credo che la storia della scienza sia costellata di rapporti di minoranza che rivelavano quello che poi è stato verificato anni dopo. Però a questo punto io ho un dubbio, anzi ho una domanda, cioè come fate a dar conto, come si farà a dar conto dei rapporti di minoranza, e soprattutto nel momento in cui una questione tipo, facciamo un esempio del clima, magari le aziende hanno interesse a spingere dei rapporti di minoranza per rendere ancora più, diciamo, discutibile una questione che per la scienza invece è assolutamente la palissiana come dal loro punto di vista, per cui non si rischia di creare un meccanismo che è quello delle mappe che poi possa essere gestito in maniera da rendere una controversia senza fine, nel senso che non si arrivi mai a una definizione. In realtà la scienza è per definizione senza fine, cioè è chiaro che a un certo punto c'è un'approssimazione che la decisione politica e che l'opinione pubblica prendono per buona, però il punto vero credo che sia, come lei giustamente ha ricordato prima, appunto il Minority Report, cioè il fatto che noi siamo passati da un orizzonte lineare, piatto, in cui appunto c'era una sola voce con cui la scienza parlava alla politica, al cittadino, a una pluralità, a una polifonia dei voci, nelle quali il punto non è che quella buona scaccia quella cattiva, no? Ma riuscire a metterle in un contesto, vedere come nel caso per esempio del clima o degli scettici del clima quali interessi sono collegati ad alcune posizioni nel modo più trasparente possibile, e poi ognuno prenderà la posizione o si allineerà su quello che ritiene più opportuno. Non sente un rischio manipolatorio da questo punto di vista? Sì, ma il rischio manipolatorio c'è negli studi scientifici finanziati dalle multinazionali, ecco, c'è nel rapporto con alcune organizzazioni politiche, questo è appunto, però più il cittadino ha strumenti per mettersi di fronte a questo scenario, secondo me meglio è. Naturalmente, ecco, questo non significa automaticamente, come è stato detto, come spesso giustamente gli scienziati ricordano, la scienza non va avanti né a maggioranza né a minoranza, però il punto è quale criteri oggi di affidabilità, per esempio nell'epoca dei media digitali, possiamo avere, no? Non abbiamo più questa è un'altra puntata, Bucchi, se la spostiamo sui media digitali dobbiamo avere un'altra mezz'ora, ma la domanda è, il cittadino come si può rapportare rispetto a queste mappe? Perché sicuramente democratizzare tutto il processo della conoscenza è cosa buona e giusta. Cosa può fare oggi un cittadino per restare informato? O è ancora presto? Siamo ancora all'esordio di questa piattaforma? Siamo decisamente all'esordio di questa piattaforma, anzi la piattaforma è l'esordio di una riunione di strumenti ancora abbastanza tecnici che abbiamo sperimentato e io ho toccato con mano con questi giorni, abbiamo un po' tra virgolette smanettato. Però Bucchi non dice una cosa che per lui è scontata ma che è importante sottolineare: questi strumenti sono tutti liberamente accessibili, cioè sono gratuiti, e quindi basta avere una buona connessione internet, perché c'è un po', bisogna far girare un po' di motori di calcolo in maniera remota, ma da un laptop normalissimo, non dal tuo iPhone, mi dispiace, forse anche dal tuo iPhone lo puoi fare. Vai avanti. Sì, ci viene. Quindi è come dire, sono open assolutamente, c'è moltissimo materiale. Credo che non sia. Voi chiedevate giustamente i rischi manipolatori, eccetera. Io lo vedo come un antidoto alla manipolazione, sicuramente qualcosa che aggiunge di più ai cittadini, che hanno voglia di, insomma, impegnarsi, perché comunque sono strumenti molto potenti e comunque abbastanza sofisticati dal punto di vista delle interrogazioni che puoi fare. C'è il Liberatore che però mi fa segno perché voleva aggiungere una cosa anche lei. Velocissimo Liberatore. Velocissimamente, ci sono comunque esperienze già in corso, nel senso che la piattaforma e i vari strumenti che il progetto in cui è coinvolto Buchi sta preparando si aggiunge a molte esperienze di, per esempio, metodologie di analisi delle tecnologie partecipate, sviluppate in molti paesi, tra cui la Germania, l'Olanda e altri, le conferenze dei cittadini sviluppate in Danimarca e altri paesi, e Massimiano può sicuramente aggiungere molti altri esempi. Quindi, diciamo, e anche in Italia abbiamo avuto parecchi, però abbiamo già alcuni casi, non so, l'autorità per la partecipazione in Toscana, ecco, gli esperimenti deliberativi, quindi insomma ci sono già, c'è già qualcosa, certo, ecco. Noi ricordiamo, ecco, che abbiamo postato sul twitter.com/novalab24 alcune mappe per andare un po' a curiosare, per permettere a chiunque di capire, insomma, di che cosa si tratta, toccare con mano, diremmo. Una battuta di un secondo di Romeo: qual è la mappa strategica dei prossimi mesi? La mappa strategica dei prossimi mesi credo che è in costruzione, la stiamo costruendo. A me una mappa che piace molto tra quelle che avete postato è quella dell'Artico, e okay, in qualche modo ha a che vedere con le discussioni sul clima. L'Artico, sappiamo tutti, a chi appartiene l'Artico. L'Artico si sta sciogliendo, quindi diventa navigabile, uno dei desideri di chi si affaccia sull'Artico. Grazie Romeo, non ti dilungare, sarà un'altra puntata. Io ringrazio Guido Romeo, ringrazio Liberatore, ringrazio Buchi, torneremo sicuramente a parlare di clima. Nova Lab 24. Nova Lab 24. Nokia e Apple ai ferri corti. La casa finlandese, leader mondiale nei telefonini, ha denunciato ieri l'azienda di Steve Jobs alla Corte federale del Delaware per aver violato 10 brevetti di sua proprietà. L'accusa riguarda l'utilizzo non autorizzato di tecnologie per l'utilizzo di protocolli GSM, UMTS e Wi-Fi. L'auspicio di Nokia è che la società di Cupertino firmi un accordo di licenza per l'utilizzo dei brevetti. Al via il Festival della Scienza di Genova. La kermesse si è aperta oggi con la conferenza del premio Nobel per la medicina Luc Montagnier. Il programma di questa settima edizione, dedicata al tema Il futuro, propone 300 appuntamenti in 80 location, tra mostre, laboratori, spettacoli e incontri con i grandi della scienza. Un social network su cellulare per condividere la musica. È Soundtrack, il nuovo sistema online presentato allo SMAU 2009 a Milano. Il social network permetterà di creare e condividere stazioni radio personalizzate, sintonizzarsi su quelle dei propri amici ascoltandole in tempo reale sul telefonino, scoprire nuovi brani e geolocalizzarli nei luoghi in cui sono stati ascoltati. Negli USA a partire da novembre, poi l'arrivo in Europa. È il gruppo di galassie più antico e distante mai osservato. Si trova a 10,2 miliardi di anni luce ed è stato osservato dall'osservatorio a raggi X della NASA Chandra insieme ad altri telescopi. Secondo i ricercatori, l'oggetto si trova al limite della distanza possibile per gruppi di galassie. In tempi ancora più antichi, la forza di gravità non sarebbe stata in grado di crearli. Bentornati, siamo in collegamento dallo SMAU di Milano con Enrico Pagliarini. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Che cosa c'è di bello? Beh, ci sono tante cose, direi che sicuramente se una piccola azienda, più piccola che medio-grande, perché le medio-grandi aziende hanno tecnici specializzati che sanno oramai un po' di tutto, per i piccoli ci sono naturalmente tutte le soluzioni per diventare tecnologicamente un po' più avanzate, e ricordiamo che la tecnologia fa rima con competitività, anche se in Italia fatichiamo a capirlo. C'è un'altra cosa molto interessante, cioè i percorsi dell'innovazione. Ci sono 50 giovani start-up, 50 giovani idee che ieri tra l'altro hanno incontrato, abbiamo raccontato nel nostro speciale che va in onda alle 21 anche questa sera, hanno incontrato gli investitori e c'è un certo fermento. Oggi è stato dato il premio per l'innovazione ed è stato vinto da Illusion Network, ragazzi romani che hanno finora sviluppato videogiochi e hanno sviluppato un'applicazione che è dedicata in modo particolare ai turisti, che riproduce i monumenti. Quindi uno si trova davanti ad un monumento e con per ora un iPhone, poi arriveranno applicazioni anche per altri telefoni, e può vedere com'era quel monumento tanti tanti anni fa. Grazie Enrico, ricordiamo alle 21 lo speciale? Questa sera alle 21 lo speciale SMAO che abbiamo fatto in queste serate, poi naturalmente domani c'è 2024 alle 15.30, domani dedicheremo una buona parte a Windows 7, perché naturalmente lo SMAO è coinciso almeno nella giornata di ieri con l'arrivo anche in Italia ma in tutto il mondo del nuovo sistema operativo della Microsoft, quindi parleremo anche di questo. Grazie Enrico, noi diamo appuntamento invece a lunedì alle 16 e alla prossima.